Quando avete ricevuto in mano il catechismo, scommetto, sono birichino, scommetto che qualcuno avrà pensato: oh, io maestro, io insegnante, oh, io farmacista, oh, io medico, oh, io ingegnere, oh, io datore di lavoro, intenditore di campagna, io... Con questo catechismo, ma Don Nisino, mi crede proprio un ignorante? Ma io, amici cari, che pure ho studiato tanta teologia, con voi ho letto volentieri quelle pagine di catechismo e leggendole, dopo tanti anni che studio teologia, mi sono sentito ignorante, ignorante. E ho ripassato con voi quegli elementi di catechismo fondamentali per non essere proprio del tutto ignoranti di Dio e delle sue verità. Non mi sono sentito degradato, non mi sono sentito decaduto, tutt'altro. Ma quand'è che noi siamo veramente grandi? Quando siamo veramente piccoli. Se non diventerete piccoli come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Non ci capirete un cavolo di tutto quello che dice il catechismo, il Vangelo, la Chiesa. Piccoli. Avete sentito parlare ancora del Cenacolo? Quel luogo dove gli apostoli si riunirono insieme con la Madonna e altre 100 e più persone. Quel salone, quell'ambiente c'è ancora a Gerusalemme. Nel Cenacolo il Signore aspetta soltanto i piccoli. È come fosse scritto sulla porta: vietato l'ingresso ai grandi, vietato l'ingresso agli adulti. L'ingresso è riservato ai piccoli e a chi ha come loro il cuore da fanciullo, il cuore innocente, il cuore buono. Semplice. Vietato l'ingresso ai grandi, vietato l'ingresso agli adulti, aperto l'ingresso ai piccoli, l'ingresso ai fanciulli, l'ingresso ai semplici, ai poveri di spirito.